Come si fa? Carbone, nome. Un nome, una garanzia. Assolutamente, ma noi non possiamo mai fare danni. Certo. Quante soddisfazioni mi dai? Ecco, se poi anche perdessi qualche chilo sarebbe bello. Qui, oltre ad una pacca sulla spalla, naturalmente speriamo anche di fornire indicazioni pratiche e concrete. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ballerine di Degas, bianche nuvole il vento non le scioglierà, le bambine di Renoir, fiori gialli a Montparnasse, le ragazze di Renoir, Gauguin. Noi oggi invece, Nicoletta, che pensiamo? Noi pensiamo a Chagall. Eh sì, uno degli artisti del Novecento più amati dal pubblico contemporaneo, un maestro del Novecento che la città di Milano celebra da mercoledì scorso con una retrospettiva di ben 220 opere. Retrospettiva che si conclude a febbraio dell'anno prossimo. Questa mostra è organizzata da Palazzo Reale e prodotta tra gli altri da 24 Ore Cultura e Gruppo 24 Ore. E oltre alle opere si potranno anche ammirare le memorie dell'artista. Pensate, per la prima volta sono presentate al pubblico. Allora oggi faremo un viaggio nel mondo dell'arte partendo proprio da Chagall, che è un artista straordinario, proprio capace di toccare, credo come pochi, i temi dell'amore e dei sentimenti. È un tema anche di denari questo, però, Nicoletta, quindi per chi si sarà chiesto com'è possibile che oggi parlino di un artista di questa portata, non saranno mica impazzite, no, è un tema di cuore e di denari, perché a livello internazionale le opere d'arte sono riconosciute come beni di investimento, alla pari di azioni, obbligazioni, immobili, oro. In Italia però, nonostante il nostro sia un paese dalle straordinarie ricchezze artistiche e culturali, questo mercato non solo non è granché conosciuto, ma è anche guardato con una certa diffidenza. È forse un settore circondato anche da un certo pregiudizio. L'arte viene considerata per pochi, figuriamoci l'arte per investimento, no? Viene vista proprio come un comparto solo per ricchi e collezionisti, e spesso si pensa che appunto questo settore sia riservato a pochi ricchi addetti ai lavori, e invece non è così. Non è così, e poi Deborah, non è sempre solo questione di denari. L'arte, l'abbiamo anticipato, è nutrimento, è salute, perché parla al cuore e al cervello, e l'arte ci aiuta a vivere meglio, come la prevenzione. Ma proprio come quando si parla di prevenzione molte persone pensano che sia una cosa difficile e limitante, anche nei confronti dell'arte, dalla parte del cuore, sì, dei sentimenti, ci sono delle resistenze, perché si pensa che sia una cosa per detti ai lavori. Invece l'arte, lo scopriremo proprio nel corso della trasmissione grazie all'intervento dei nostri ospiti, parla a tutti e soprattutto ed è per tutti, e quindi è proprio un investimento come la prevenzione, che non può farci che bene. Oggi, insieme a Deborah, vorremmo che ci aiuteranno naturalmente grandi esperti, passasse il concetto che avvicinarsi all'arte è semplice e che non può che aggiungere qualità alla nostra vita, partendo proprio dalle emozioni che l'arte può suscitare e le suscita in ciascuno di noi. Quindi mettete mano alla cornetta, come sempre componete l'800 24 00 24, e per quello che riguarda i denari raccontateci se avete pensato di fare un investimento in un'opera d'arte, per quale motivo, per sfizio, passione, anche per convenienza, o perché avete capito che magari un bel quadro, insomma, può rendere nel tempo un po' di più che investire per esempio a Piazza Affari. Raccontateci anche se avete un oggetto, un quadro in casa o ereditato ritrovato in soffitta, che pensate possa avere un valore economico. 800 24 00 24 per parlare però anche di altri capolavori. Parleremo dei disegni dei nostri bambini, per noi genitori e per le zie soprattutto sembrano quadri di Picasso, Picasso, di Chagall, o comunque contribuiscono, anche se non sono, no, dei grandi capolavori, noi li viviamo come tali e quindi siamo molto orgogliosi dei disegni dei nostri bambini. Loro ce li fanno vedere con grande orgoglio e noi li mostriamo a nostra volta. Allora, se anche ai vostri bambini piace disegnare, se hanno dei soggetti preferiti, se volete così scoprire che ci sono delle fasi nel tratto proprio che accompagnano le fasi di crescita dei nostri bambini, c'è il periodo dello scarabocchio, poi quelli dei faccioni, ci raggiungerà nella seconda parte della trasmissione la dottoressa Trinci. Gli amici di Cuore Denari la conoscono, è una psicologa dell'età evolutiva. Se volete mettervi in contatto con lei, 800 24 00 24. Insieme a te onde volo sopra la città, io insieme a te come in un quadro di Chagall. Insieme come in un quadro di Chagall, che oggi è un po' il convitato di pietra della nostra trasmissione. Ci piacerebbe che fosse qua, ma insomma non è possibile, però c'è virtualmente. Oltre alla promozione della retrospettiva di cui vi abbiamo dato l'utile indicazione di inizio programma, il Sole 24 Ore promuove anche un'iniziativa editoriale dedicata alla divulgazione dell'arte per i più giovani. Sì. Come si chiama questa iniziativa? Si chiama I Maestri dell'Arte, sono 12 coloratissimi volumi monografici che sono interamente illustrati per raccontare ai ragazzini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni la storia e anche le opere dei più grandi protagonisti dell'arte nelle diverse epoche. Il primo volume della collana in edicola proprio oggi, per cui andate in edicola e potete sfogliarlo e vederlo, sicuramente vi sarà una carezza al cuore, è proprio dedicata a Marcia. Allora, possiamo anche attivarci se gli ascoltatori vogliono per regalare addirittura un'intera collana questa mattina. Naturalmente devono attivarsi anche loro, certo. E poi nel corso della trasmissione avremo anche altre domande a cui potremmo, no? Possiamo già anticiparlo? Sì, esatto, dai. Dai, allora faremo delle domande nel corso della trasmissione. Voi dovete essere prontissime a rispondere perché dell'arte arriverà a casa vostra. Esattamente. Rimango così molto generica. Noi facciamo le domande perché naturalmente abbiamo qui gli esperti che possono dare le risposte. Vogliamo dare subito il benvenuto a Claudia Zevi, che è curatrice della retrospettiva su Chagall, che come dicevamo si può visitare a Palazzo Reale qua a Milano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi invitata. No, grazie a lei naturalmente. Grazie, noi siamo molto, molto felici di averla in linea con noi. Avremmo avuto il piacere di averla qua in studio, ma la cattureremo per la prossima volta. Allora, inviti lei i nostri ascoltatori a visitare la mostra. Suggerisca due buone ragioni, ce ne sono sicuramente di più, ma due, per visitare la mostra di Chagall. Un invito fatto addirittura dalla curatrice, insomma, che cosa vogliamo di più? Claudia Zevi. Allora, io direi il primo motivo per visitarla è che è una mostra divertente. Io prima dell'inaugurazione, prima della conferenza stampa di ogni mostra, chiedo di solito a una classe, a due classi di bambini, uno della prima, seconda elementare e uno della quarta, di venire a visitare la mostra. Quando abbiamo finito i bambini hanno detto che bello, ricominciamo da capo. Questa è la prima cosa. Il secondo motivo per visitarlo è che attraverso i quadri di Chagall, proprio per come è stata la vita di Chagall, noi riattraversiamo un pezzo di storia del Novecento che passa attraverso i momenti più importanti del Novecento, dall'inizio del Novecento con la nascita delle arti, delle avanguardie a Parigi, alla prima guerra mondiale, alla nascita del nazismo, alla seconda guerra mondiale, alla bellezza della Costa Azzurra, quindi è una storia che ci viene raccontata in modo, credo, più semplice che non attraverso i libri. Mi sembra che siano due ottimi motivi. Assolutamente. E nel corso sì. della trasmissione ne scopriremo altri. Se amate visitare mostre, raccontateci che cosa vi spinge a visitarle, soprattutto che emozione, che arricchimento vi ritrovate. Allora, oltre naturalmente nel corso della trasmissione comincio un pochino ad alzare il velo sulla modalità con cui l'arte entrerà nella casa dei nostri ascoltatori, vi daremo l'opportunità di visitare la mostra di Chagall a Milano, ma stamattina, se volete, avete anche l'opportunità di ottenere, se volete, la tutta la collana, appunto, certo, la collana dell'arte insegnata in qualche maniera ai bambini. Allora, volumi. Io chiedo peraltro alla dottoressa Zevi se è d'accordo su questa domanda che abbiamo scelto da rivolgere ai nostri ascoltatori, e naturalmente alle risposte corrette, alla prima risposta corretta che arriverà, giungerà a casa appunto la collana. Dottoressa Zevi, abbiamo scelto questa domanda. Qual è il paese d'origine di Chagall? Qual è il paese d'origine di Chagall? Non lo possiamo dire, però possiamo magari poi dare degli aiutini. Esatto. Ma io sono certa che i nostri ascoltatori chiameranno l'800 24 00 24 per ricevere a casa anche e soprattutto questa. Le risposte devono arrivare entro le 11.30, perché poi andiamo avanti con altre iniziative. Brava. Ottimo. E poi però qui abbiamo anche un'altra amica. Esatto. Buongiorno e benvenuta Marilena Pirrelli, collega di Plus 24 del Sole 24 Ore, ma soprattutto responsabile della pagina Art Economy 24. Buongiorno a voi e ai telespettatori. Alla quale abbiamo peraltro chiesto poi se come dire, ci può dare un po' una cifra di riferimento sulle quotazioni delle opere d'arte di Chagall. Abbiamo qualche cosa di interessante da raccontare, Marilena, poi con te ci intratterremo a lungo sul tema arte come investimento. Beh, certo, l'artista è un artista che ha un, appunto, come diceva la curatrice Zevi, un lungo periodo, vive fino a 97 anni e quindi produce tantissimo, quindi sono tante le opere in, come dire, conosciute e catalogate, e ovviamente le principali sono nei musei, nelle collezioni private, ma ciò non toglie che è ancora un artista che ha degli scambi di mercato, quindi con delle quotazioni che ovviamente sono milionarie per quanto riguarda la pittura, e invece molto più frequenti e comunque più basse, ma non tanto, tanto basse come possiamo immaginare, per i multipli in sostanza, per le stampe, che si attestano intorno ai 100.000, quindi non sono comunque quotazioni bassissime. Le stampe si definiscono multipli, tra l'altro ho scoperto anche questo stamattina, hai visto? Lo sapevi tu? Io lo sapevo perché abita nella casa davanti a me, allora ogni tanto mi mando delle... Ottimo, quindi insomma abbiamo dato delle cifre di riferimento, poi andremo ad approfondire questi temi, Marilena. Intanto io volevo chiedere a Claudia Zevi, io ho letto, forse ne parlavamo insieme io e lei per preparare la puntata, che quando lei organizza una mostra, mette in piedi una mostra, si chiede, un po' come fanno i giornalisti quando scrivono un pezzo, bene, che cosa voglio dire? Ecco, ho capito bene? Certo. Qual è il messaggio? Credo che questa sia una delle domande fondamentali che una persona deve porsi al momento di organizzare una mostra. Perché una mostra è sostanzialmente una cosa diversa da un museo. I musei, che all'estero vengono molto visitati e molto meno in Italia, hanno... E perché non vengono visitati in Italia? Perché in Italia, paradossalmente, abbiamo talmente tanta arte, sì, che i musei sono talmente ricchi che è difficile seguire l'itinerario. Si passa dai fondi oro del 300 a opere del 2000. Una mostra deve in qualche modo avere un tema, raccontare una storia e in questo modo, secondo me, affascinare il pubblico e soprattutto rendergli più chiara la lettura, attraverso la lettura della storia, la comprensione delle opere d'arte, fino a renderle una cosa non difficile ma piacevole. Dottoressa Zevi, da dove arrivano le 220 opere che appunto tutti i visitatori potranno ammirare a Palazzo Reale a Milano? Sono davvero tante? Arrivano da musei o da quale altra appunto fonte? Dunque, io volevo dire che intanto le opere che i visitatori potranno vedere a Milano sono quasi 300, perché altre 60, che hanno come argomento la Bibbia, sono esposte al Museo Diocesano come una parte della mostra. Chagall ha lavorato sulla Bibbia dagli anni 30 fino agli anni 80, per 50 anni, più di un tema molto preciso ma molto importante. Le 200 opere invece che sono al Palazzo Reale partono dai primi anni suoi in Russia, quando andò a studiare ad Axt, attraverso il primo viaggio a Parigi, poi il ritorno in Russia e poi ancora il suo viaggio a Parigi. Sono opere che vengono dalle eredità della famiglia. Quando Chagall morì lasciò metà delle sue opere a sua figlia e l'altra metà alla sua seconda moglie. Quando la sua seconda moglie morì lasciò anche lei tutto ai nipoti dei Richard. Quindi abbiamo una grandissima collezione in famiglia. Abbiamo opere che vengono da grandi collezioni private, da grandi. Chagall, a proposito degli investimenti, è stato un artista molto venduto negli Stati Uniti, che ha avuto un gran successo, quindi noi abbiamo diverse collezioni importanti che vengono dagli Stati Uniti. E poi naturalmente i grandi musei, che a loro volta le hanno acquistate, quindi dal Museum of Modern Art di New York alla National Gallery di Washington, al Museo di Toronto, ai musei giapponesi, ai musei svizzeri, tedeschi, alla Tate Gallery di Londra. Diciamo che abbiamo opere che vengono da tutto il mondo. A noi abbiamo anche un'ascoltatrice in linea con noi che vuole portarsi a casa la collana dei 12 volumi monografici. Bisogna vedere se ci riuscirà però. Simonetta, buongiorno, ci chiama da Parma. Benvenuta. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Allora, era impero russo quando è nato, adesso è Bielorussia la città. Dove è nato? L'area, diciamo. Chagall. Allora, noi abbiamo Claudia Zevi che... Claudia Zevi, ha risposto in modo corretto Simonetta? Ma devo dire che Bielorussia è il paese in cui è nato. Bisogna vedere se voi chiedevate, lui è nato in una città bielorussa. Quindi è come dire Italia e dire Roma. Insomma. Va bene, però gliela passiamo. Nostra era una domanda formulata in modo non preciso. Un po' impreciso. Comunque Simonetta, la Bielorussia, l'ha presa e quindi io direi che Simonetta si porta a casa i nostri 12. Anche perché, mi dispiace un po' perché me li sarei capito io. Però il nome della cittadina non è proprio semplice da pronunciare, vero? Ecco, Chagall è nato a Vitebsk. Che non era una cittadina, ma una città grande della Bielorussia, in cui una parte importante era dedicata agli ebrei, in cui viveva il mondo ebraico, e questo lo vedremo dipinto nei quadri di Chagall e lo vedremo sempre per tutta la sua vita, il ricordo delle case di Vitebsk, e che purtroppo durante la Seconda Guerra Mondiale venne bruciata e rasa al suolo dai nazisti. Di questo incendio abbiamo una testimonianza in mostra, nel senso che c'è proprio una fotografia dell'incendio di Vitebsk. E nei quadri di Chagall, ecco perché io dico interessante e divertente, vedremo, Chagall era negli Stati Uniti, era a New York, quindi non era presente, ma ha saputo dell'incendio di Vitebsk, e alcuni dei suoi quadri più sconosciuti e più forti raffigurano per l'appunto l'incendio di Vitebsk, con una donna con in braccio un bambino che fugge, con un crocifisso in primo piano. Pensate, Chagall ebreo che raffigura un Cristo vestito come un ebreo, quindi mette insieme le due religioni nel momento della terribile tragedia. Lui ci racconta, tra le altre cose, l'incendio di Vitebsk in Bielorussia. Io ringrazio Claudia Zevi perché avendo queste informazioni, andando a vedere la mostra, si raccolgono e si guardano anche i quadri con un altro occhio, perché sei più preparata. E allora fra 220 opere, magari qualcuno non ha molto tempo, no, per potercela gustare tutta, può andare un po' più a colpo sicuro. Mi veniva in mente di chiederle, Claudia Zevi, è importante, sarebbe, per gustare un quadro, conoscere bene la vita dell'artista? Spesso andiamo ad una mostra e saltiamo da un quadro all'altro, oppure prendiamo magari la guida o ci prepariamo. Qual è il modo secondo lei più adatto per gustarsi una mostra? Parliamo di persone almeno come me che non hanno una cultura così profonda dell'arte, cioè persone che si appassionano, che davanti ad un quadro si emozionano, che hanno il piacere di andare ad una mostra o a visitare un museo e che si lasciano un pochino colpire da quello che l'opera d'arte gli manda. Senta, io ovviamente se uno va a vedere una mostra e si informa un pochino su chi era Chagall, dove era vissuto, cioè anche solo questo breve cenno che abbiamo fatto adesso, è una persona che è vissuta in Russia, ha dovuto fuggire dalla Russia, è stato un emigrante, ha dovuto fuggire dalla Francia, dalla New York, è stato un emigrante come quelli che incontriamo ancora oggi, è stato uno che ha mescolato religioni diverse, era contro l'integralismo. Naturalmente se uno ha queste informazioni, meglio, che però si possono avere anche abbastanza facilmente guardando su internet, su Wikipedia, meglio. Però, come le dicevo, io molto spesso, anzi quasi sempre per le mie mostre, chiedo la visita di due classi di bambini o tre, perché i bambini che non sanno, ma che vedono, ma che si lasciano portare dalle emozioni, sono quelli che in qualche modo capiscono bene l'arte e mi fanno delle domande che di solito sono veramente precise e mi fanno anzi ragionare su delle cose. Io posso fare un esempio, il tempo? Sì, abbiamo i mercati, ce lo teniamo un secondo per dopo e anche Antonio? Anche Antonio, magari gli facciamo fare velocemente la domanda, perché credo che per Marilena Pirrelli, ma anche per la dottoressa Zevi, sia molto interessante quello che ha da dirci questo ascoltatore. Antonio, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, complimenti sempre per la trasmissione. Antonio, grazie, e facciamo anche i complimenti a Deborah. Non mi offendo, non c'è problema. Certo, no, Antonio, ci dica. Niente, volevo, dato l'opportunità che c'è, l'ho visto in televisione la dottoressa Zevi, io da tantissimi anni ho uno Chagall, ma tantissimi anni, dico 30 minimo, uno Chagall circa un 35x25, incorniciato benissimo, che mi è stato regalato appunto moltissimi anni fa. A chi bisogna andare? È una lastra su metallo. Io ho controllato anche la firma e tutto quanto, è molto bello. A chi bisogna rivolgersi per farlo vedere? Eccolo qua, proprio il tesoro in casa, il tesoro in soffitta, che è il titolo anche di questa rubrica, no, delle pagine del lunedì del Sole 24 Ore, dedicate appunto proprio al risparmio. E quindi adesso daremo le indicazioni, speriamo corrette appunto, ad Antonio, che magari possono servire anche ad altri ascoltatori che così incuriositi scoprono qualche cosa di ricco in soffitta e vogliono andare a fare una valutazione. Peraltro, proprio per coincidenza straordinaria, è anche un'opera di Chagall, quella che ha Antonio in casa. Cuore e denari. Questo è un quadro di Braque. Braque. Siamo agli inizi del secolo scorso. Ah, una particolarità, questo quadro va visto da lontano. Ma dai. Sì. No, no, ma non così, è veramente lontano. Vai, allontani. Ancora di più. Perché l'artista ha lavorato sulle linee, sulle forme, sui volumi, creando una specie di illusione ottica e vuole che tu stia veramente lontano. Ma veramente? Va, dai, arriva. Sì, ecco, veramente. Quando sei nella giusta posizione, che fai? Apri e chiudi gli occhi fino a quando l'essenza del quadro stesso non ti compare dentro la pupilla, come se fosse un flash, una sorpresa. Ah, una sorpresa. Insomma, l'arte oggi a 360 gradi, investire in arte anche per piccoli portafogli, perché altrimenti qua ancora una volta gli ascoltatori un po' si lamentano, ma è un settore che appartiene solo a ricchi collezionisti, non è così, è avvicinabile per tutti e forse qualche volta anche meglio di un BTP. L'arte anche come investimento personale, insomma, se impariamo con tutte le istruzioni per l'uso a gustarci una mostra, oggi il nostro grande ospite è Marc Chagall per l'iniziativa del Sole 24 Ore, la mostra a Milano, ma anche la collana I maestri dell'arte. Allora, l'ascoltatore da Milano ha raccontato poco fa ai nostri microfoni di avere un'opera in casa sua, una lastra su metallo, se non ho capito male, dimensioni 35x25, un regalo che risale a 30 anni fa. Che dottoressa, regali, eh? Altro che, a me non è mai capitato che qualcuno mi regalasse qualcosa del genere. Dottoressa Zevi, così con lei andiamo sul sicuro, poi sentiremo anche qualche suggerimento di Marilena Pirrelli. Dove deve andare questa persona per farsi fare una corretta valutazione di questa opera che appunto ha in casa? Dunque, intanto io direi, vorrei chiarire in cosa consiste questa opera, se è giusto quello che lui, come lui ce l'ha descritta. Se è una lastra su metallo, vuol dire che si tratta dell'incisione originale, cioè della lastra su cui poi dovevano essere stampate delle incisioni, una serie di incisioni, che di solito vengono fatte 1 a 100. Abitualmente le lastre, ed è questa un po' la differenza tra i multipli e le incisioni numerate, le lastre vengono biffate, che vuol dire l'artista fa un segno attraverso la lastra perché non venga più utilizzata dopo l'uso. Questa non lo è. Comunque bisogna rivolgersi al Comité Chagall, che sta a Parigi, Place de Furstenberg. Quindi lo si trova su internet, comité con l'accento acuto, Chagall, e loro si riuniscono una volta al mese proprio per dare l'autenticità. Ma così a naso, dottoressa Zevi, sarebbe possibile stabilire che valore potrebbe avere questo lavoro che ha in casa il nostro amico? Dunque, è difficile, io ho chiesto in prestito alcune lastre al museo di Chagall per averle in mostra nella sezione della Bibbia. sono, non hanno valori altissimi, devo dire. Ma sì. Che cosa si intende per altissimo associato a Chagall, esatto? Come? Qual è il valore di qualcosa di altissimo associato a Chagall? Ecco, allora, per dire una cosa così, se fosse vera, ovviamente potrebbe valere, diciamo, forse 10.000 euro, una cosa di questo tipo, mentre per darmi l'idea il quadro La caduta dell'angelo che noi abbiamo in mostra che viene da Basilea vale 30 milioni di euro. Ah beh, c'è un filino di differenza a proposito di multipli. Però se voi mi permettete, io volevo dire una cosa su questa cosa dei valori delle opere d'arte, credo naturalmente voi saprete. Questo non credo, dottoressa Zevi, ma siamo contenti di sentirlo da lei. L'investimento in arte è uno dei più fruttuosi esistenti al mondo. Le grandi collezioni d'arte sono le opere d'arte, ma anche, voglio dire, Picasso, il Chagall, i grandi artisti sono stati comprati. Io conoscevo un gallerista molto amico che era comprava Klimt. A un certo punto rinunciò a acquistare un quadro di Klimt perché costava 30 milioni di euro. Questo quadro è stato rivenduto a 80. Ecco. E lui ogni volta disse: mannaggia me, ecco, si morde un po' i gomiti. Ecco, quindi questo è una cosa certa. Guardi. L'altra cosa altrettanto certa è che è molto raro trovare delle opere d'arte autentiche fuori dai canali seri. Oggi come oggi, quello che se una persona vuole investire in arte dovrebbe fare è andare da una galleria molto seria, penso per esempio per le opere su carta, che quelle che sono quelle che hanno un valore un po' più accessibile. Diffidare dalle persone improvvisate. Guardi, tutte raccomandazioni che Marilena Pirrelli da anni scrive sul Sole 24 Ore. Naturalmente, quando peraltro questa rubrica su Plus 24 è partita qualche anno fa, era proprio perché Marilena aveva avuto questa forte intuizione su che tipo di interesse stesse suscitando tra la platea dei risparmiatori anche di piccolo taglio questo comparto. No, insomma, che cosa ti suggerisce tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento? Chiaramente. E poi suggeriscici, noi Chagall non possiamo prenderlo. No, però insomma, andiamo per chi volesse investire in arte, magari scoprirti. Allora, prima di tutto ringrazio la dottoressa Zevi perché ha aiutato ad introdurre quello che è il mercato. Il mercato ha bisogno di precisione. Un'autentica su Chagall non la può dare chiunque, non la può dare una casa d'asta né un gallerista, ma lo dà il comitato di Chagall, il comité Chagall. Quindi questo è il primo passo. Ci sono degli studiosi che continuamente studiano le opere e sono catalogate, si conosce il patrimonio pittorico e artistico dell'autore. Passo successivo, il mercato. Il mercato, anche questo, è fatto di, come diceva la dottoressa Zevi, di persone qualificate, e quindi la galleria storica che si occupa di Chagall è quella alla quale dovremmo rivolgerci, non c'è nulla da fare, piuttosto come l'esperto d'asta più importante, non faccio i nomi delle case d'asta, ma internazionale, francese, che in qualche modo vi potrà dare una valutazione di quella che è l'opera. Quindi il nostro ascoltatore, noi sicuramente crediamo nella sua buona fede, ma se la sua lastra non ha un'autentica, non ha le firme, non ha tutto quello che ci dimostra che è uno Chagall, il mercato non accoglie, non prezza neanche solitamente le opere. Giusto per dare un'indicazione, una conferma di quello che diceva la curatrice, il mercato di Chagall negli ultimi, dal 2000 ad oggi, stiamo parlando del mercato della pittura, ha battuto abbondantemente l'S&P 500. Ecco. Quindi è stravero che le opere molto importanti battono i listini azionari, però parliamo di opere molto importanti. Ecco, bene ha fatto chi ha comprato Chagall quando Chagall non era così famoso. E allora vengo alla domanda: sarebbe bello poter avere le competenze o sapere come destreggiarsi per trovare l'X factor dell'artista emergente, e quindi adesso comprare Chagall bisogna avere tanti soldi, ma anche il Mario Rossi, diciamo, della situazione, che dipinge magari un trentenne, un quarantenne emergente, però anche lì orientarsi in questo mondo di emergenti, no, comincia ad essere un po' complesso, Marilena. Certo, il tempo fa il mercato in qualche modo. Il mercato dell'arte si dipana in arcate di tempo molto più ampie, quindi parliamo di decenni solitamente per riuscire a qualificare un'opera d'arte e un artista. Nell'ultimo periodo si è compresso, la velocità del web, tutte le velocità che appunto hanno travolto la nostra vita, ha travolto anche l'arte. Quindi in realtà oggi tutti sono a caccia, appunto si dice, del Basquiat, perché il Basquiat, se volete, è l'artista, il benchmark più fresco, più caldo, come dire, di rivalutazione. Tutti sono a caccia di quello che sarà il Basquiat di domani, non più il Picasso, perché di Picasso già appunto sappiamo. Il lavoro che facciamo noi su Plus 24 e poi appunto un po' diverso su lunedì con il tesoro in soffitta è proprio quello di dare degli strumenti puntuali, precisi, perché anche in arte si può essere precisi, su quelli che sono gli artisti che dalla galleria incominciano ad avere visibilità negli spazi pubblici, quindi musei, per poi incominciare ad arrivare in asta, non prima, e quindi ad avere delle quotazioni credibili, accreditate. Se invece un artista passa dalla sua produzione direttamente in asta, si brucia, proprio perché non ha quell'accreditamento necessario che appunto i curatori, come la dottoressa Zevi, fanno nel loro lavoro di ricerca e di, come dire, tra virgolette, innovazione, perché ogni artista ha dietro di sé tutta la storia dell'arte. Considerate questo come solitamente gli artisti sono i migliori giudici degli altri artisti. Quindi per individuare un artista, noi ogni mese andiamo a individuare delle categorie. L'ultimo mese abbiamo trattato la fotografia giapponese contemporanea. Vi do questa perché c'è anche la fotografia, naturalmente. Certo, un'altra puntata. L'artista Kenro Izu, giapponese, che sarà nei prossimi mesi la fondazione di fotografia a Modena, quota appena 3.000 euro, ed è un artista che ha già enormi riconoscimenti e sono bellissime le sue immagini. Dimmi il nome che mi è sfuggito, che poi andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Kenro Izu. Te lo regalo a Natale, guarda. Ci conto. Cuore e denari. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Marilena Pirrelli ha mandato in tilt i nostri centralini con il nome del giapponese, del fotografo giapponese su cui converrebbe puntare, ma state sereni, nel corso della trasmissione la nostra collega ci darà anche delle indicazioni su degli investimenti, su come farli, ma prima vogliamo salutare e ringraziare per essere stata con noi Claudia Zevi. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie e grazie per questo bel lavoro e per essere intervenuta a Cuore Denari raccontandoci anche un po' una mostra dietro le quinte e insegnandoci così ad avvicinarci, a rompere un po' quegli indugi che spesso abbiamo nel avvicinarci all'arte. Grazie a Claudia Zevi. Grazie a voi e arrivederci. A presto. Vedi, perché soprattutto ci hai dimostrato e sottolineato ancora una volta che l'arte è una questione di cuore, perché davanti a un dipinto, una scultura, un'opera d'arte noi ci emozioniamo e ci commuoviamo. Insomma, l'arte lo leggiamo, lo sentiamo anche noi, parla al cuore, ma parte, attenzione, dal cervello, che rappresenta una testimonianza anche preziosa del suo funzionamento. C'è una sorta di relazione molto stretta. Guardi l'arte e scopri anche la bellezza del cervello. A proposito, qua partiamo con il secondo domandone di arte e cervello, parleremo tra poco con un grandissimo esperto. Il domandone è questo: chi è lo scopritore dei neuroni a specchio? E che cosa c'entrano con l'arte? Domandone. Che cosa provocano? 800 24 00 24. Che cosa possiamo dare in cambio della risposta giusta? Io direi che possiamo portare gli ascoltatori a Palazzo Reale a vedere la mostra di Chagall. Perché così i neuroni a specchio funzionano. Esattamente. E producono quella cosa che... Allora, chi è lo scopritore? Benissimo, ci sono tanti biglietti a vostra disposizione. Allora, magari sentiamo i nostri ascoltatori. Alberto da Bergamo, pare che qua stia diventando un vero e proprio collezionista. Alberto, buongiorno. Buongiorno, intanto saluto le due opere d'arte del programma, Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Bravo, senta, dove possiamo portarla lei? Esatto, adesso le mandiamo la nostra foto e lei la deve mettere in cornice. Alberto, ci dica un po', da un anno che cosa sta facendo? Da un anno mi sono appassionato all'arte contemporanea e ho cominciato a comprare un po' di opere non Chagall perché costano... Beh, inavvicinabile direi. Che cifre spende, Alberto? Dei Valentino Vago, dei Griffa, dei Simeti, dei Pinelli e magari... Alberto, no, tanto anche per far capire ai nostri ascoltatori che non c'è bisogno di svenarsi, no? Per sì. Avvicinarsi come investimento a questo settore, che cifre spende lei? Se posso chiedere, naturalmente. Dai 5 ai 20 mila euro a quadro, più o meno. No, tra l'altro, dove le conserva anche queste opere? Ha spazio in casa oppure magari... Sì, ormai non ho più pareti libere, però no, perché... è anche una soddisfazione passare e vederle appese. Però credo, Marilena, anche la conservazione dell'opera non è un aspetto irrilevante per il mantenimento anche dell'investimento e la crescita di questo. Assolutamente sì, soprattutto nel contemporaneo che vede l'ingresso di materiali completamente nuovi rispetto a quelli usati fino all'arte dell'Ottocento. Tutto quello che è Novecento vede entrare materiali spuri in qualche modo, materiali di risulta, spesso sono proprio rifiuti in qualche modo che entrano nell'opera d'arte o spesso sono silicone o quant'altro. Il problema della conservazione nel contemporaneo è proprio che mentre nel restauro di un'opera antica o anche di un'opera dell'Ottocento dà valore all'opera perché la si rende giustizia e grazia di quello che era il suo passato, nel contemporaneo invece il restauro dell'opera d'arte non viene riconosciuto dal mercato, proprio perché spesso l'opera ha a monte un artista vivente che potrebbe in qualche modo rimettere mano all'opera, ma non sempre questo accade, non sempre gli artisti sono disponibili. E quindi nel contemporaneo la conservazione e il restauro è ancora più complessa. Noi abbiamo fatto un numero sul lunedì per spiegare proprio questo, quanto la conservazione del contemporaneo sia difficile. Certo. Allora Marilena, questa puntata sarebbe per affrontare tutti gli aspetti, le truffe, le opere d'arte che si vendono con le televendite, ci sono un milione di aspetti da considerare e noi questo, ci torneremo magari. Ecco, no? Questo cosa ci fa pensare, Deborah? Che inviteremo di nuovo Marilena Pirelli, ma soprattutto invitiamo gli ascoltatori a leggersi con attenzione Art Economy 24 e poi la rubrica naturalmente del lunedì Tesori in soffitta, si intitola così, naturalmente se ne scoprono di tutti i colori. Marilena, grazie molte per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie Marilena e leggeremo naturalmente sempre i tuoi articoli e poi faremo degli investimenti oculati ma molto vantaggiosi. Voglio salutare il prossimo ospite, abbiamo il piacere di avere con noi il professor Giulio Maira, che è direttore dell'Istituto di Neurochirurgia al Policlinico Gemelli di Roma. Buongiorno professore. Benvenuto. Buongiorno. Con lei ci addentriamo in un territorio molto affascinante. Parliamo del rapporto tra arte e cervello, un rapporto molto complesso che negli anni ha intrigato i cultori della storia dell'arte, gli studiosi proprio dei meccanismi di funzionamento del cervello. Tra l'altro c'è proprio una disciplina, la neuroestetica. Vero, che proprio consiste nello studio scientifico delle basi neurologiche coinvolte nella creazione e anche nella contemplazione di un'opera d'arte. Cuore e denari. C'è qualcosa nell'arte, come nella natura, del resto, che ci rassicura e qualcosa che invece ci tormenta, ci turba. Ci rassicura un prato verde pieno di fiori, un cielo azzurro senza nuvole, ci turba l'immobilità di un lago, la violenza di una tempesta. Vediamo, ascoltiamo, non con gli occhi o con le orecchie, ma con il nostro cervello. È lì che accade tutto. È dentro il cervello che il papavero diventa rosso, la mela odora e l'allodola canta, scriveva Oscar Wilde nel De Profundis. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Giulio Maira, che abbiamo fatto attendere. Ma professore, siamo curiosi. Eccoci, buongiorno. Buongiorno e grazie per essere a Cuore Denari. Grazie a voi. Ma che succede di preciso? Che cosa capita nel nostro cervello quando vediamo qualcosa di bello? È vero che la percezione del bello sembra mettere in moto gli stessi mediatori chimici che sono attivati dalle esperienze che ci danno piacere? Sembra di sì, perché oggi le neuroscienze ci permettono di studiare tutte quelle che sono le manifestazioni che coinvolgono in qualche modo gli organi di senso ed il cervello. Esiste una disciplina, come hai ricordato, fondata da Semir Zecchi, che è la neuroestetica. Ecco, voglio ricordare anche che Semir Zecchi ha avuto un premio molto importante dalla Fondazione Atena, di cui io sono presidente, proprio per i suoi meriti in questo campo. Al Campidoglio a Roma, quest'anno? Al Campidoglio a Roma un paio di anni fa. Sì. Diciamo che l'arte è una delle forme più sofisticate di conoscenza che abbiamo, è anche un modo per studiare il nostro cervello. Semir Zecchi ha visto che facendo vedere un quadro reputato bello si attivavano nella corteccia cerebrale, e questi sono degli studi che oggi le neuroscienze ci permettono di fare con le risonanze magnetiche, si attivava un'area che è l'area che normalmente si attiva quando noi abbiamo un piacere di qualunque tipo esso sia. Un dato molto importante è che facendo vedere a dei matematici delle formule matematiche che loro ritenevano importanti e che ritenevano belle, si attivavano le stesse aree, e tanto più semplici erano le formule matematiche, tanto più queste aree venivano attivate, come se il bello fosse qualcosa insito nel nostro cervello. C'erano degli esperimenti fatti con dei bambini appena nati, facendogli sentire la musica di Mozart e di Bach attivava un elettroencefalogramma fisiologico, le musiche più violente invece disturbavano l'elettroencefalogramma del bambino, che evidentemente non aveva nessuna cultura, nessuna conoscenza di cosa stesse ascoltando. Professore, diciamo che tutto quello, quando noi guardiamo un'opera d'arte, cioè quando i nostri organi di senso trasmettono al nostro cervello un'opera d'arte, noi attiviamo un sistema cerebrale importante, cioè il lobo occipitale, che è quello che elabora la visione, ma attiviamo anche le aree cerebrali che servono per l'emotività, attiviamo le aree cerebrali che servono per la memoria, perché dobbiamo confrontare sempre le esperienze che facciamo con le esperienze passate, e dobbiamo fissare anche le esperienze belle in modo da avere il desiderio di richiamarle alla memoria e di richiamarle nell'azione. Quindi per questo vengono attivati i centri della ricompensa, che sono quelli anche che si attivano tutte le volte che noi proviamo piacere, e in modo esasperato quando ci sottoponiamo, non lo so, un'assunzione di droga o di farmaci estremamente eccitanti. E quindi la ricompensa, è importante dirlo, non è stata creata dalla natura perché noi ci droghiamo, ma è stata creata dalla natura perché venga attivata tutte le volte che abbiamo un'esperienza positiva, e la contemplazione dell'opera d'arte è una di queste esperienze positive. Ecco, la contemplazione dell'opera d'arte, Deborah, pensa adesso che andiamo a vedere Chagall, pensa quante cose capitano nelle nostre testoline, non è una cosa passiva, ma proprio tutto si mette in moto, un po' come quando ascoltiamo musica, professore. Assolutamente, il nostro cervello è sempre attivo. Ecco, noi siamo ogni sera che andiamo a dormire abbiamo un cervello che è leggermente diverso dal cervello della sera prima, perché abbiamo avuto esperienze, abbiamo creato circuiti neuronali, abbiamo ingrandito le nostre potenzialità. E l'ingrandire le potenzialità con l'opera d'arte è molto importante, perché esistono dei protocolli e degli studi che tendono a portare i pazienti affetti da Alzheimer nei musei, per far sì che l'osservatore dell'opera d'arte in qualche modo richiami delle memorie passate e permetta all'osservatore passivamente, perché l'osservazione dell'opera sembra apparentemente passiva, permetta all'osservatore di creare reti nuove, di attivare in un certo senso quel cervello che altrimenti la malattia, l'Alzheimer, tenderebbe lentamente a fare spegnere. Professore, anche il cervello è un'opera d'arte, 30 miliardi di neuroni capaci di realizzare milioni di miliardi di connessioni. È proprio dall'azione di questa moltitudine di unità che dipendono le funzioni più importanti del nostro organismo. Noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori lo scopritore di neuroni che ci sembrano particolarmente simpatici, forse perché sono in grado di produrre qualche cosa, sono i neuroni a specchio. I nostri ascoltatori abbiamo chiesto di chiamare all'800 24 00 24 per indicarci lo scopritore, ma ci vuole spiegare lei, professore, perché sono importanti per l'arte? I neuroni sono in genere importanti perché hanno aperto un campo di conoscenza delle neuroscienze, nel funzionamento del nostro cervello straordinario, cioè i neuroni specchio sono quelli che ci permettono di entrare in empatia con le persone, di capire i sentimenti delle persone, di prevedere le azioni che faranno. Nel momento in cui noi osserviamo un'opera d'arte, i neuroni specchio possono permetterci di entrare in empatia, in desiderio di emulazione dell'artista, del gesto che ha fatto l'artista, della sensazione che ha voluto riprodurre l'artista nel fare quel particolare quadro. Quindi sono dei neuroni che in un certo senso ci permettono di entrare nei panni degli altri. Ecco. Capire meglio gli altri, in questo voi donne siete molto più bravi di noi infatti. E lo dice il professor Maira, perché se l'avessi detto io l'ascoltatore mi avrebbe subito scritto, questa è sempre di te. In empatia e di avere una capacità istintiva di capire le persone e le cose è una caratteristica e non a caso ad attivarsi per prima a rispondere al nostro quizzone di oggi è stata Milena da Milano, che salutiamo intanto, buongiorno, e che ci darà il nominativo, appunto il nome dello scopritore dei neuroni a specchio, Milena, e quindi potrà godersi e gustarsi naturalmente la mostra di Chagall a Milano. Milena, buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto. Allora, a scoprire i neuroni a specchio è stato Giacomo Rizzolatti, che è il direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Parma. Professor Maira, è corretto? È corretto, ha fatto bene a dire direttore del Dipartimento, perché in genere le ricerche sono sempre continue di un gruppo, diciamo che il gruppo di neuroscienziati del professor Rizzolatti, che in una serie di esperimenti sui macachi ha, forse casualmente, ma il caso non viene mai per niente, il caso è sempre la conseguenza di osservazioni, di intuiti brillanti, casualmente hanno visto nei macachi questa attivazione di queste cellule neuronali. Allora, ringraziamo il professor Maira, grazie. Lo invitiamo presto perché è sicuramente una cosa molto affascinante, quella, no, che ci permette di capire che cosa funziona, che cosa si attiva nel nostro cervello quando leggiamo, ascoltiamo musica, quando guardiamo un'opera d'arte. Professor Maira, la aspettiamo qua in studio, grazie. Grazie moltissimo, grazie dell'invito, grazie tante, arrivederla. E diciamo che insieme a Milena da Milano portano a casa i biglietti per Chagall, Lucia da Piacenza, Paolo da Novara, Daniele da Milano, Alessio da Brescia, sono tutti diciamo un po' nei dintorni, naturalmente magari escogiteremo anche un modo per invitare a Milano anche altre persone che magari abitano un po' più lontano ma che lo stesso appunto vogliono godersi questa iniziativa. Adesso parliamo di bambini? Sì, e adesso noi ci godiamo la dottoressa Manuela Trinci, buongiorno dottoressa. Dottoressa. Buongiorno a voi. Salve, parliamo, ben ritrovati. Ecco, parliamo di quei capolavori che non hanno prezzo, i disegni dei nostri bambini ci inteneriscono, ci commuovono, ci riempiono d'orgoglio, anche se a volte sono tratti un po' confusi, aggrovigliati o mini striminziti, casette sbilenche, alberi che sembrano stecchini, farfalle che no, sembrano un po' delle patate, ma tant'è che li hanno fatti loro. Tra l'altro, dottoressa Trinci, tra pochissimi giorni uscirà per Feltrinelli il suo libro La giusta fatica di crescere, indipendenza, inciampi, fantasia, gli alleati migliori per diventare grandi. E si diventa grandi anche disegnando, o sbaglio? Quando il piccolo prende una matita in mano dimostra una buona dose di indipendenza perché lo fa da solo, ma anche una buona dose di fantasia, perché c'è anche fantasia, ci vuole tanta fantasia per fare uno scarabocchio. Ma guardi, indubbiamente, intanto però premetto e preciso che il libro che esce per Feltrinelli è scritto a quattro mani con il pediatra Paolo Sarti, così tanto per precisazione. E sicuramente lei ha ragione, perché ha colto proprio i punti nodali, cioè l'indipendenza anche del bambino nel momento in cui prende una matita e utilizza il foglio, ma anche la fantasia, il desiderio di creare e di lasciare un'impronta. Pensi che questa è una concezione decisamente contemporanea del disegno, perché se noi pensiamo all'inizio, proprio in cui, all'inizio per esempio del Novecento, come venivano osservati i disegni dei bambini, venivano o appunto ignorati, oppure si iniziava a valutare attraverso il disegno le qualità cognitive del bambino. Sì. E quindi, per esempio, era ovvio che a 2 anni il bambino dovesse fare un cerchio, oppure che dovesse mettere su la linea retta. a 4 anni ci doveva essere l'omino completo, tant'è che tutt'oggi c'è il test dell'omino. A questa, diciamo, vedi, il test dell'omino lo conoscevi, Deborah? No, adesso loro osserverò con più attenzione i disegni dei miei nipoti, naturalmente. No. Sono già meravigliosi. No, dice, no, devo farlo? Assolutamente. Ma non per metterli alla prova, assolutamente, così per mia curiosità. Michele fa delle farfalle meravigliose, peraltro. Perfetto. Infatti, diciamo che nell'incrocio poi degli elementi di psicologia con l'arte, con poi piano piano anche le scienze, appunto le neuroscienze, oggi si tende più a vedere nel disegno dei bambini qualcosa che rende visibile, per dirlo con Paul Klee, proprio i moti dell'anima, quindi l'emotività. Pensi che i primi disegni, voi li avete chiamati scarabocchi, grigoghi, così come vogliamo, sono comunque, Paul Klee li descrive splendidamente nei suoi diari, sono delle linee che i bambini portano a passeggio. Bene. Per rendere l'idea, è bellissima questa frase, per rendere l'idea proprio di come inizialmente sia il movimento quello che motiva il bambino, più che la rappresentazione. E poi nella crescita, nel sistema rappresentativo del cervello, che il bambino riesce a dire: vedo una casa e la voglio rappresentare. In un incrocio comunque, questo mi preme molto sottolinearlo perché per i genitori è importante, in un incrocio che lega comunque l'emotivo del bambino. Per esempio, se io ho il rosa e invece desidero esprimere qualcosa di diverso in una faccia di un omino, posso benissimo farla verde. Certo. È l'emozione del bambino in quel momento lì che è la cosa importante. Il bambino non copia la realtà, ma la interpreta. Esatto, e la modifica, la plasma, la rende qualcosa che è un suo linguaggio, è lo stile narrativo di ogni bambino. 800 24 00 24, c'è ancora qualche minuto per mettersi in contatto con... Sì. No, tra l'altro volevo chiedere alla dottoressa Trinci se possiamo portare, certo, i bambini, vai, a vedere le mostre. Guardi, è splendido ed è fondamentale, questo direi che è l'ascito più grande del grande Munari, ecco. Però guardate che, come per Nati per la musica, Nati per leggere, è un bagno di cultura nel quale noi dobbiamo bagnare proprio il bambino fino dal momento della nascita. È un'attitudine al bello, è la pedagogia dello sguardo. Capisco che abbiamo pochi minuti, invece sarebbero argomenti che richiedono molto di più. È la, per esempio, possibilità di far fruire ai bambini di libri belli, di libri diversificati fra loro. Per esempio, Cappuccetto perché deve essere rosso? Munari l'ha disegnato bianco, verde. Quindi qualche cosa avevo colto proprio dell'intervista precedente, che comunque allarga la mente. L'arte è questo per un bambino. Quindi ci sono dei libri, fra l'altro oggi è uscito davvero molto bello e molto importante, Marc Chagall per Il Sole 24 Ore, che consiglia a tutti i genitori, così come ci sono per esempio nella collana della Lapis, casa editrice Lapis, delle monografie dedicate a dei pittori, con all'interno delle possibilità per i genitori come per gli insegnanti di fare dei laboratori su questo. Lei, chiunque abbia esperienza di mostre, vedrà che accanto alla mostra, alla visita della mostra, per gli adulti ci sono i laboratori. Ecco, queste sono esperienze che per i bambini, appunto, il bambino apprende facendo, quindi si guarda, si osserva. Il laboratorio è qualcosa che fa sì che il vedere possa diventare guardare, no? E quindi il cervello si attiva, il cervello cresce e il cervello viene nutrito. Dottoressa Trinci, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi e buona giornata. Buona giornata. Abbiamo terminato. Vittoria da Milano voleva raccontarci che è stata chiusa 3 giorni dentro il Louvre e è rimasta letteralmente ubriaca da questa esperienza, tanto che non riusciva a dormire. Magari risentiremo la sua testimonianza in un'altra circostanza. Grazie a tutti, Marco Lombardo, Laura Vanossi, Carmelo Lauricella. Noi torniamo lunedì. Buon weekend a tutti. Cuore e denari.